Va bene, mi sa che iniziamo. Ok. Salve a tutti, io sono Davide, sulla lista sono Iwa. È da moltissimo tempo che non parlo a un pubblico, questa cosa mi mette in una certa difficoltà. Sì, sì, questo è introduzione. Lascia stare. Mi mette in una certa difficoltà. Se dovesse avere comportamenti strani o fermarmi, abbiate pazienza. Dopodiché ci stanno due o tre cose che faccio. Anche per questo mi viene più facile scriverle che pronunciarle. Ciao, sono una voce preregistrata prodotta dai servizi Google e ora ti leggerò l'introduzione di questo talk. Avevo pensato ad un'introduzione diversa inizialmente, ma poi ci ho ripensato. Anche vista la discussione a cui non ho partecipato ma che mi hanno riferito sui talk borderline, che io in ogni caso mi prendo il diritto di fare. Perché ho la parola borderline scritta su un pezzo di carta? Fra le altre, credo sia giusto saltarla e piuttosto spiegare il perché di questo talk. Ora, dando per assodato che per chiunque non abbia vissuto sotto un sasso negli ultimi 30 anni, il termine hacking ormai ha largamente sforato il significato originale. Legato strettamente all'informatica e al contrasto culturale con ciò che quel mondo porta, penso si possa dire che lo stesso spirito possa essere proiettato su ogni ambito. Anche quelli che magari non ci si aspetta o si rende a non considerare, per pigrizia culturale o per mancanza di fantasia. Nell'ambito della mente umana, di cui di solito sento solo nominare in termini di confronto uomo, macchina, AI e simili. L'idea dell'hacking può sembrare strana perché non si pensa di poter alterare. Fatti è così. Noi siamo talmente in balia dei processi sottostanti la psiche che sembra anche inutile considerare la possibilità. Tuttavia, sempre per chi non vive sare e che gli altri debbano quasi per scaramanzia schivare l'argomento. Che ci sia possibilità di agire su se stessi, e gli altri, nei termini di alterazione delle proprie e altrui abitudini, interessi, pensieri, difetti, paure eccetera. Eccetera è noto. Non sono un motivational speaker, o uno che ti spiega con una voce confortante e un master in neuropsichiatria cosa è il narcisismo in un video su YouTube. Al contrario. Penso che la cosa vada presa proprio dalla prospettiva di una persona qualunque, che non può sacrificare 10 anni o di prendersi rischi, o della morte. Qui ci caliamo nei panni di una persona generica che è natura psicologica e deve orientare sull'esperienza personale, diretta e indiretta, e quella di decine di persone che bazzicano tutte più o meno in una community fortemente legata alla zona in cui vivo. Ma non solo. Inoltre, sempre per rinnovare l'idea che si parta da chiunque, nei giorni precedenti ho fatto girare sia in lista, sia nella community che ho citato, sia in altre un sondaggio i cui dati userò come riferimenti e linee guida. Specifico in questa modalità per renderlo più buffo e nel caso tu abbia difficoltà su questi temi. In questo talk si nomineranno molte cose che possono risultare difficili da sentire per alcuni, fra cui suicidio, TSO, autolesionismo, depressione, dipendenza da droghe, e altre robe del genere. Vedi tu che dobbiamo fare. Se vi sentite a disagio dopo questa cosa vi è sembrato strano, vi sentite come me, quindi partiamo sullo stesso livello. Allora, a grosso modo ho già spiegato in questa breve introduzione quello che dirò. L'idea è di passare comunque da una serie di opzioni, che sia io che altre persone che comunque coordino dentro questa community, hanno dovuto gestire e hanno dovuto considerare. Il problema di fondo è anche che su queste tematiche si tende ad avere tendenzialmente un approccio che erediti dall'ambiente in cui vivi, non ti fai un'idea critica al riguardo. Quindi se stai in un ambiente dove queste cose si affrontano semplicemente nascondendole, le nasconderai. Se vivi in un ambiente in cui questo tipo di problemi si affrontano andando da specialisti e facendo qualunque cosa si dicano, lo farai. Se semplicemente bilanci queste cose usando qualcosa che faccia da piallativo, ci sarà una sezione sulle droghe, ma non è quello che pensate, ti dedichi a quello. L'idea di fondo è che sono tutte strategie valide, però sono tutte quante limitate. Nessuna di queste ti dà una soluzione unica che tu potresti anche far usare a persone che ti stanno vicino. L'idea del talk infatti è sia rivolta a chi ha effettivamente problematiche, e io voglio chiamarle problematiche comunque, perché senza prenderci per il culo, se tu arrivi a farti determinate domande, usare determinati strumenti, uno scarto, un senso di disagio nei confronti di queste cose ce le hai, altrimenti non arriveresti nemmeno a parlarne. Quindi caliamoci nei panni di questa che si trova a considerare è l'ambito sociale, cioè come reagiranno le persone intorno a me, le persone che frequento, quando dirò c'è questa problematica. Cosa possono fare per me? Cosa posso fare io se una persona che conosco manifesta questo tipo di problematica? Sul sondaggio, questa sezione hanno partecipato bene o male tutti, ho chiesto se le difficoltà di cui stiamo parlando fossero peggiorate per motivazioni legate allo stigma che c'è intorno all'idea di salute mentale o per aver avuto difficoltà a comunicarlo con altri. C'è una maggioranza tipo di 2/3 sul sì, ho avuto difficoltà. Quindi è chiaro che ancora ad oggi la maggior parte di noi, o almeno delle persone che hanno partecipato a questo sondaggio, alcune delle quali spero siano in questo momento qui, sì. Sono 30 persone partecipanti, ho filtrato soltanto chi ha risposto a hai avuto effettivamente problemi, ok? Quindi sono 30 persone, non è un grande campione, però è quello che ho potuto produrre basandomi su persone che su cui baso anche il resto del discorso, quindi volevo che ci fosse una coerenza di fondo. Ci stanno 2/3 di persone che comunque hanno vissuto questa cosa in maniera negativa, quindi è chiaro che la maggior parte di noi ancora viviamo in situazioni in cui non ci si può esprimere liberamente sul inizio a sentire questa difficoltà, che può essere una cosa estremamente varia dal ho ansia e non me la sento di andare al lavoro a sento voci. C'è un intero spettro di cose. Il fatto è che in parte questa cosa la perpetriamo cazzi proprio al bar. Quello è il senso. Da un lato c'è una necessità di mostrare maggiore apertura su questo e ovviamente non si può pretendere che le altre persone si adattino a questo, ma si può fare il primo passo di fare uno sforzo per avvicinarsi agli altri e, quando viene manifestata questa cosa, creare un ambiente in cui quella persona possa esprimere liberamente il suo disagio. Perché, di nuovo, nella community di cui parlo, moltissime persone hanno avuto notevoli miglioramenti semplicemente avendo la possibilità di dire ad alta voce io ho una diagnosi di depressione maggiore da quando avevo 16 anni. Oppure ho avuto un TSO per tentato suicidio a causa di errati farmaci che mi sono stati somministrati. Non è che una volta che mi dice questa cosa io devo disperarmi per il fatto che me l'abbia detta o debba comportarmi diversamente. È quella persona che manifesta una necessità particolare e anche soltanto la possibilità di essere se stessa, ammettere una parte di sé che è complicata e che porta problemi, è già di per sé un grande passo, una cosa che aiuta moltissimo. Ho fatto poi una serie di domande al riguardo, perché, come dico, ognuno di noi può fare questo passo, però nel momento in cui ci si trova in quella situazione, spesso capita la cosa in cui nessuna persona che ti sta accanto, né a livello di persone a te vicine, né di parentela, né di ambiente sociale e lavorativo in cui ti trovi a bazzicare sempre, mostri il supporto di cui parliamo. Là ci sono due domande da farsi in anticipo, cioè se ciascuno di voi se la faccia, se io dovessi trovarmi in questa situazione ad avere una di queste problematiche, le persone che mi stanno intorno accetterebbero questa cosa, mi darebbero effettivamente una mano o si sentirebbero a disagio sopraffatte dalla complessità della cosa e preferirebbero schivare l'argomento? L'idea di fondo è quella che se sentite, pensate che le persone intorno a voi possano darvi quel tipo di supporto, avete quello che viene chiamato in gergo un support network, cioè un gruppo di supporto. Chiedendo al riguardo chi ce l'avesse e chi lo trovasse utile, c'è stato un 50-50 fra ce l'ho e non ce l'ho. Quindi molte persone hanno effettivamente trovato il sollievo nell'avere un gruppo di persone che possono dare supporto in questi termini, per il supporto che si può dare a una situazione che magari non si comprende e a cui non si hanno le specializzazioni per aiutare, molti altri no. E questo di per sé è un problema. Ognuno di noi dovrebbe fare lo sforzo di assicurarsi che le persone intorno a sé, se avessero questa necessità, si sentano a loro agio a dirvelo. Ok? Questo è il concetto di fondo. Ho fatto un paio di analisi in più, ad esempio sull'ambito sullo stress generale, che sembra essere la principale problematica per una buona metà. Il senso di rassegnazione, che è abbastanza distribuito, non c'è una punta una curva abbastanza tipo campana di Gauss, ok? È qui distribuita. Quindi non ci abbiamo punte di persone che sono convinte di non potersela cavare assolutamente, che sono sicure di cavarsela da sole. C'è una distribuzione e questa cosa va ricordata, perché molte persone magari non tentano nemmeno l'approccio su queste cose, di parlarne, perché partono, e in alcuni casi fa parte del disturbo questa cosa, dal punto di vista psichiatrico poi ne parliamo, che è solo un punto di vista, anche soltanto comunicarlo è quasi impossibile perché ci si convince che sia inutile. Quindi è necessario anche lì assicurarsi che si crea un ambiente in cui la persona abbia la possibilità di dirlo sentendo che possa essere utile dirlo, ok? Questa è una responsabilità in parte collettiva. La maggior parte trovano che comunque cambiare lavoro, cambiare persone intorno a sé, cambiare vita, abbia contribuito in meglio. C'è anche un 30% che indicano che è peggiorata la cosa. Però fondamentalmente anche qua il messaggio è non rimanere legati a un ambiente solo perché dà stabilità, quando magari nella situazione in cui ci si trova con queste problematiche non si ha la possibilità di esprimersi, di portare avanti le proprie problematiche. Poi comunque, nel senso, l'ambito sociale è complesso e ovviamente nessuno di noi ha la capacità o l'esperienza di risolvere qualunque tipo di situazione del genere. Ci sono decine di opzioni diverse. Ognuno ne segue una e ci arriveremo. Un altro argomento su cui volevo soffermarmi, perché tornerà dopo, è il fatto che molte persone arrivano a questo punto, se ne rendono conto solo dopo molto tempo, e ho comunque esperienza personale anche di molte persone che conosco, che se ne sono reso conto solo dopo molto tempo che erano già sotto dipendenza da droghe. Ora io sono assolutamente a favore dell'uso ricreativo, non è quello il discorso, anzi è proprio il contrario. Non sto, e qua mi è stato fatto notare che è una cosa importante a specificare, non sto dicendo se hai la depressione fatti di cocaina, non sto consigliando di usarlo come farmaco nella maniera più assoluta, piuttosto è un ragionamento all'inverso. Esiste e qua c'è un'ipocrisia di fondo che viene considerata inizialmente questa cosa come o ricreativa o una via di fuga, non viene considerata come altro. Eppure a livello di effetti e di rischi uno psicofarmaco che viene prescritto ha le stesse caratteristiche di una droga. La differenza è che è pura, nel senso il principio è puro, non è tagliato male, e ti viene fornita da un'istituzione. Questa è la differenza di fondo. Il che non significa che, ripeto, usare una droga come farmaco sia una soluzione. Però si può fare il ragionamento all'inverso, che è quella che poi viene anche usata nel trattamento delle terapie per chi ha dipendenza da droga, che si chiama self-medication hypothesis. Il concetto della self-medication hypothesis è: ogni sostanza ha un effetto specifico sul corpo e sull'umore, e il fatto che una persona tenda a preferire una sostanza, perché poi la maggior parte delle persone che sviluppano dipendenza tendono a essere poly drug users, quindi ad usare regolarmente più droghe, hanno comunque una preferenza. L'idea di fondo è che ognuna di queste droghe tocca diverse sezioni del cervello, ha diversi effetti. Un esempio: gli oppiacei, ok, tendono ad avere un effetto sedativo, tendono a permetterti di distaccarti un po' dalle tue sensazioni e da tutto quanto. Sono molto popolari fra persone che poi, quando finiscono magari in una terapia, lo scoprono indirettamente, che avevano una necessità di distaccarsi dalle proprie emozioni e dalle proprie situazioni, per chi ha un'emotività troppo intensa, per chi ha subito traumi e non riesce a tollerarlo. Invece, che ne so, l'alcol, che tende esclusivamente ad amplificare le emozioni, qualunque esse siano, o la cocaina che tende esclusivamente a disinibire, elimina l'ansia sociale, elimina la paranoia nei primi dosaggi, intendo. Ovviamente più si alza il dosaggio, più aumentano gli effetti collaterali e molto spesso l'effetto positivo si ribalta. Tuttavia, anche per chi si trova in questa situazione, si accorge di avere problemi e ha già un consumo di droghe, non per forza dipendenza, è utile usarlo come guida per capire quale sia la problematica. Perché ha un'influenza ed è inutile far finta che non lo sia. Inoltre, questa cosa voglio dirla adesso, nonostante per decenni si sia parlato delle droghe pesanti e leggere come di una cosa da abolire ed erano appannaggio esclusivamente di ambienti liberi in cui comunque non viene espresso giudizio e non vengono trattate con stigma le persone che ne fanno uso, oggi invece ci sono case farmaceutiche e gruppi di ricerca che hanno iniziato a usarle per curare diversi disturbi, che è una cosa che spero molti sappiano. Se non lo sanno, l'avete appena scoperto. Per le persone che hanno quella che viene chiamata depressione resistente a trattamento, ovvero depressione che non migliora con nessuno dei farmaci ufficiali in uso, è stato verificato che funziona la terapia con chetamina, una puntura intravena di chetamina ogni 2 settimane, oppure l'uso di funghi, psilocibina. In quel caso c'è la problematica che può causare problemi maggiori per chi invece di una depressione soffre di disturbo bipolare. Questo è per farvi alcuni esempi di come queste cose poi in realtà vengano acquisite dalla ricerca e da altro, e vengano utilizzate nel momento in cui se ne trova un'utilità. Non ha senso trattarlo come qualcosa di cui non bisogna parlare o che bisogna considerare a parte. Bisogna riconoscerne il rischio, ma bisogna anche riconoscerne l'utilità in certe situazioni. Il microdosing di varie sostanze è diventato popolare negli ultimi 10 anni, anche a livello mainstream, c'è gente che lo consiglia nelle situazioni più insospettabili. Sono tutte idee di come determinate cose possono aiutare a gestire una problematica o altro. Tuttavia, ripeto, io personalmente non ho mai consigliato a nessuno di partire da quello. Piuttosto mi è capitato di conoscere persone che erano già in quella situazione e si sono trovate artificialmente a trovare la sostanza che aiutava a gestire la loro problematica. E poi dopo sono resi conto che c'era una problematica perché, per il discorso che abbiamo fatto. Quello che consiglio tendenzialmente, perché comunque non ho, anche se ho un'esperienza al riguardo, non ho l'arroganza di sostituirmi a uno specialista, consiglio sempre di passare prima da uno specialista, che sia psicologo, psicoterapeuta o psichiatra. Questo non significa che bisogna prendere come oro colato quello che si dice, perché anche là ci sono molte limitazioni. Faccio qualche esempio. Psicologia e psicoterapia. Ci sono decine di psicoterapie diverse, maggior parte delle quali non hanno una validazione analitica, funzionano su base empirica. Vengono utilizzate, si verifica che funzionano, se funzionano per un numero consistente di casi, quindi se c'è una statistica positiva al riguardo, viene continuata a usare, viene affinata la tecnica. Questa è la storia della maggior parte delle psicoterapie. Questo non significa che noi sappiamo che effettivamente funzionino, sappiamo che in alcuni casi hanno risolto, e sono gli strumenti migliori che abbiamo al riguardo. Tuttavia, la psicoterapia fondamentalmente funziona come un'esperienza introspettiva. Quindi quello che fa lo psicoterapeuta è aiutarti a esprimere e a comprendere qualcosa che c'era già all'interno della tua persona e della tua personalità. Chi ha difficoltà nell'introspezione? Chi ha difficoltà croniche di fiducia negli altri? Si parla di persone paranoiche o di altre situazioni del genere. Non è facile l'opzione della psicoterapia ed è inutile consigliarla a chiunque anche per questo. Da problema a problema, in alcuni casi la psicoterapia è anche dannosa, perché la persona che magari ha quello che poi in psichiatria viene classificato come disturbo paranoide o disturbi di quella tipologia o schizzoide non ha in alcun modo la capacità di continuare la terapia con lo psicologo, perché non se ne fida, non riesce a esprimersi liberamente al riguardo o non riesce a fare introspezione. Quindi quello che succede è che si genera soltanto una sfiducia verso quello che è uno strumento fra i tanti e che può portare la persona ad allontanarsi da qualunque forma di supporto, cosa che ho anche visto. Sono opzioni, sono solo opzioni e vanno valutate in base alla persona che ci si trova davanti e a chi si è, quando si valuta per se stessi. Molte persone, fatemi vedere un attimo dove c'ho le statistiche al riguardo, molte persone preferiscono invece l'opzione della psicoterapia. La psicoterapia, cioè della psichiatria. La psichiatria ha un principio fondamentalmente differente. Nella psichiatria non si tenta di capire cos'hai e di modularlo, di portarti a superarlo con delle tecniche. Si tende esclusivamente ad analizzare tutte le sintomatiche che hai, tutti i problemi che lamenti, vederli se entrano in una determinata classificazione. Se entrano in una classificazione tu hai un disturbo. Per determinati disturbi si consiglia psicoterapia, per altri si consigliano i farmaci, per altri una combinazione di entrambi. Qua, ripeto, come ho già anticipato prima, in realtà non ha nemmeno senso vedere questa cosa come una panacea, perché uno, anche sugli psicofarmaci, va detta questa cosa, c'è un mostruoso empirismo. Ancora oggi molti farmaci che vengono usati sono robe che fanno attivamente male al corpo, che possono causare ulteriori danni neurologici. E voi direte, allora perché si usano? Si usano perché sono lo strumento migliore che abbiamo per ottenere quel risultato. Cioè non si è ad oggi trovata una soluzione migliore. Un esempio classico è il litio. A riguardo esistono anche modi per modificare il litio e ottenere un composto che è molto meno dannoso per il cervello, ha anche effetti positivi se usato a bassi dosaggi, ma quello è un altro discorso, il litio scorbato. La questione di fondo è che per chi ha difficoltà con l'introspezione, ha difficoltà con un rapporto umano con la persona che ti segue, la psichiatria può essere utile. Per chi ha necessità di una classificazione perché non riesce a comprendere i suoi stessi problemi, può essere utile una classificazione. Ma anche sulla classificazione ci sono interi movimenti di antipsichiatria che lamentano i limiti e i difetti di quelle che sono le diagnosi psichiatriche. Ora, io non sono antipsichiatrista, non penso siano inutili. Penso abbiano dei limiti. Penso che, questo è un fatto, la maggior parte dei disturbi abbiano una percentuale che va dal 30 al 70% di sintomi comuni. Quindi è facilissimo ricevere la diagnosi sbagliata e venire curati per tutta la vita per la cosa sbagliata. È una cosa se ti danno un farmaco sbagliato per il raffreddore, che non ha particolari effetti sull'organismo, ma un farmaco che è in grado di alterare la tua personalità, la tua capacità di vivere in autonomia e tutto il resto è un'altra storia. Quindi là io raccomando una certa prudenza e anche una tendenza a sfidare se necessario il proprio medico, a dire ma tu sei sicuro di questo? Ma perché mi dici così? Chiedere una seconda valutazione, considerare l'uso di farmaci sempre come seconda opzione, se possibile, nei casi che abbiamo già descritto. E in ogni caso, vi ripeto, se andate a vedere benzodiazepine, il litio, altri farmaci antidepressivi, il valproico, sono tutte quante sostanze che per effetti e per danni collaterali non sono equiparabili a una droga pesante. L'unica differenza è che per lo scopo che si voleva raggiungere con quel tipo di terapia sono funzionali e può essere utile, ma è solo un'opzione fra le tante. Conosco diverse persone nella mia community che, perché hanno avuto la sfortuna di finire in mano al medico sbagliato in età adolescenziale, perché hanno purtroppo avuto problemi precoci, si sono trovati adesso a non andare più da nessuno specialista perché questi specialisti l'hanno devastati con prescrizioni approssimative. Ho fatto l'esempio di questa persona, una mia amica che ci tiene sempre a raccontare questa storia, finisce in clinica con delle difficoltà che vengono classificate come OCD, quindi disturbo ossessivo compulsivo, le si dà una terapia farmacologica. Questa terapia non funziona, lei continua a peggiorare, invece di rivalutare quanto fatto, la clinica si limita ad aumentarle i dosaggi e a diagnosticarle altro. Però le nuove diagnosi, depressione ansiosa e poi inizio di schizofrenia, erano causati dal eccessivo farmaco. Conseguenza, questa persona è arrivata all'età di 18 anni a tentare un suicidio e ha ricevuto un TSO. Da allora ha smesso di prendere farmaci, ha smesso di andare da quello in quella clinica, fatto positivo, ma non è più in grado di andare da nessuno specialista. Per ovvi motivi, ha un trauma profondo intorno a questa cosa. Questo perché è stata abbandonata là alla completa mercé dello specialista senza farsi domande. Ma per questo tipo di lavoro e per questo tipo di difficoltà è estremamente delicato valutare questa opzione e non bisogna assolutamente sottovalutare i lati negativi. Però, ripetiamo, la psichiatria è utile. Combinazione di più cose, ancora più utile. Ci sono tutta una serie di approssimazioni, c'è un sacco di altri discorsi sulla psichiatria preventiva piuttosto che riabilitativa. La preventiva è quella che si faceva nel Novecento, che fondamentalmente l'idea è ancora diffusa, che se una persona ha problemi bisogna sedarla. Quindi bisogna semplicemente dargli un dosaggio di sostanze, perché si tratta di sostanze, che eliminano qualunque attività emotiva, eliminano qualunque sensazione negativa a livello mentale, però in cambio eliminano tutto. C'è valogramma piatto, perdita di desiderio, perdita di emozioni, perdita di volontà. Sono tutte cose che succedono a chi subisce questo tipo di trattamento. Ora, non voglio dire che sia inutile, perché comunque, di nuovo, conosco anche persone che hanno diagnosi multiple, una ragazza in particolare che conosco ha autismo, anoressia nervosa, schizofrenia OCD, una combo abbastanza pesante, e in casi come quello è giusto che nel caso che peggiori troppo si usi una terapia sedativa, ma sempre tempi brevi e con l'idea di cercare di migliorare. Il punto è, quello che si fa è che, dato che è estremamente facile usare una terapia sedativa, perché il paziente smette di lamentarsi, banalmente, è più facile dare una terapia sedativa e non preoccuparsi di curare davvero il paziente. È una cosa che succede spesso. Ed è una cosa a cui bisogna stare attenti, quindi è sempre importante anche sfidare il proprio specialista, pretendere determinate conferme, pretendere che ti dia una diagnosi, pretendere che ti spieghi perché ti vuole dare quel farmaco, pretendere di valutare delle alternative se possibile, non lasciare che di subire un'imposizione, ok? Quello è il messaggio che volevo far passare. Parte di questi problemi sono legati anche a un approccio ancora diffuso oggi, ma sbagliato riguardo alla psichiatria, dove fondamentalmente i disturbi e il trattamento dei disturbi venivano considerati a livello come un problema esclusivamente neurologico, cioè è un malfunzionamento del cervello. Quindi si parla tanto, è popolare, anche se c'entrano quasi un cazzo con la maggior parte dei disturbi, in realtà dopamina, serotonina, piuttosto che GABA, glutammina e altri recettori, altre sostanze prodotte dal corpo. In realtà quello che si scopre negli ultimi 20 anni, ma che ancora adesso stenta essere accettato da parte della comunità scientifica, perché ci sono ricerche al riguardo, io ci tengo a specificare che quello di cui discuto sono tutte cose su cui c'è ricerca scientifica, a cui posso rimandare se qualcuno lo richiede, per chi vuole approfondire, perché è semplicemente la strada che ho seguito io e che hanno seguito le persone intorno a me. Ci sono opzioni che non hanno magari una letteratura scientifica di supporto, io non le ho usate, non ne tratto, non nego che possano essere utili, ma non sono io la persona a cui chiedere per quello. Comunque, dicevo, la problematica là è legata al fatto che si trattava il cervello come se fosse un organo a sé stante scollegato dal corpo. Questa cosa è stata ribaltata negli ultimi 20-30 anni, si parla adesso di psiconeuroendocrinoimmunologia, ovvero che è un nome molto grosso per dire anche un disturbo che può sembrare che non c'entra nulla, come un'infiammazione cronica, può portare disturbi neurologici. Anche una cosa stupida come un'anemia può portare sintomi depressivi, se non trattata per lungo tempo. E allora, io vi invito a riflettere su questa cosa e dire, quando vi capiterà di andare da uno specialista, conoscerete qualcuno che va da uno specialista, che gli dà magari una diagnosi di ansia generalizzata o depressione, gli molla 2-3 farmaci e lo manda a casa, perché quello specialista non gli dice, ma fatti 2-3 analisi del sangue, fai 2-3 analisi specifiche per verificare se c'è una problematica anche fisica che può causare queste cose? Perché non viene fatta questa cosa? Non viene fatta perché manca la cultura al riguardo, perché è scomodo spendere soldi su un paziente per chiedergli di fare molte verifiche, è più facile dargli il farmaco e mandarlo a casa. E questa è la cosa da cui uno si deve tendenzialmente opporre, a meno che non abbia una specifica necessità del farmaco, ovvero che il farmaco sia veramente qualcosa che permette di fare la differenza nella tua vita fra renderla tollerabile e renderla non tollerabile. C'è un mondo di casi in mezzo. Ed è inutile appiattirli a il caso estremo e il caso in cui la persona non ha niente, che è comodo per chi fa medicina, per il sistema sanitario nazionale che risparmia, eccetera. Prego. Perché stai dicendo che potrebbe essere che anche l'alimentazione in sé o lo stile di vita, sicuro dormire poco, dormire troppo, può causare in realtà delle patologie, non so se posso chiamare così. Sì, patologie, in realtà ci stavo arrivando. Okay. Se sei ripassato su quella parte... È più facile introdurre questa cosa partendo dai disturbi, perché è una cosa magari anche più accettata e più comprensibile. Tu dici un disturbo grave, vabbè, saranno collegati. Più difficile per una persona accettare che quello che mangia può causare disturbi psichiatrici o altro, perché ti sembra ridicolo. E mangi male, hai la schizofrenia. Eppure sì. Si tratta di casi particolari e altro. Però vanno considerati, perché questi tendono a sfuggire all'analisi della maggior parte dei medici. Vai. Soprattutto, quella c'è un'intera letteratura al riguardo, il rapporto... La domanda per la diretta, a casa non... Ah, scusa, chiedono se c'entra anche la salute dell'intestino, sì, c'è un sacco di ricerca sul legame fra il microbiota intestinale e il cervello. Microbiota intestinale, per chi non lo sa, sono i batteri che vivono nel nostro intestino che completano la digestione per noi, senza di quelli non saremmo in grado di assorbire i nutrienti dal cibo. E tutta la ricerca recente mostra che, ad esempio, tutte le persone sullo spettro autistico hanno determinate alterazioni della flora batterica intestinale, gli mancano dei batteri, ne hanno troppi di altri. Persone schizofreniche hanno queste variazioni in maniera ancora più significativa. Addirittura alcune ricerche che sono ancora in fase sperimentale, comunque vanno validate, eccetera, sono state fatte alcune trapianti di microbiota, che è una cosa possibile, su persone autistiche. È stato trapiantato il microbioma di una persona sana i sintomi sono rientrati in buona parte. Nessuno di noi è cresciuto con l'idea che si possa migliorare l'autismo o ti si possa ridurre una patologia mentale. Siamo tutti quanti educati all'idea che sia una roba che ti tieni, ti capita, sei pazzo, te la tieni per il resto della vita. No. Il fatto è che questa cosa è scomoda perché richiede un sacco di verifiche, un sacco di analisi in più, e di nuovo, le verifiche complicate non piacciono a nessuno, soprattutto al sistema sanitario nazionale, a chi mette i soldi sulla salute delle persone, perché ci sono fondi limitati a persone e preferiscono una soluzione rapida che evita che quello torna a chiedere servizi, piuttosto che effettivamente curare il problema. E là deve essere ognuno di noi a fare lo sforzo extra, fare delle verifiche altro. Scusa. Sì. Il microbioma sono i batteri che vivono nell'intestino. Okay. Quello. Prego. Visto che è un podcast, e non so, c'è un momento dopo di discussione, eventualmente, perché non vorrei interrompere, cioè, non so se... Allora, io volevo farlo nel caso bastasse il tempo. Dato che tanto sto stringendo e c'è comunque il fatto che slitta tutto, secondo me si può fare tranquillamente. Ah, perfetto, allora abbiamo 25 minuti, sì, si può tranquillamente parlare. Ho quasi finito, oltretutto. Quindi, no, fra poco. No, gentilissimo. Quindi, parlavo dell'aspetto fisico e nutritivo, anche quella influenza. Qua posso fare l'esempio su me stesso. Io ho due diagnosi psichiatriche, me se ne stava dando una terza. Sospetto o di depressione o di bipolarismo, non c'era certezza da parte della specialista che grazie a Dio ha preferito rimandare che darmi il litio. Ho avuto contatti con una persona che ringrazio pubblicamente, che non è, anche pur non essendo un medico, ha profonda conoscenza al riguardo, e mi ha semplicemente consigliato di fare alcune analisi. Queste analisi, portate da un qualunque medico di base, daranno un quadro di anemia non trattata per la maggior parte della mia vita. Ora, un'anemia da vitamina B12 può danneggiare il sistema nervoso anche in maniera permanente, consuma letteralmente i nervi. Questo può portare a infiammazioni e cose che portano a sviluppo di un disturbo psichiatrico, ad esempio. Carenza di vitamina D e ferro, protratta per sufficienti anni, letteralmente depressione. Che cureranno sintomaticamente passandoti il farmaco. Nessuno ti dice vai a farti un'analisi che costa un cazzo e che nella maggior parte dei casi si può avere tramite esenzione, vitamina D, e verificare che hai livelli sotto zero e che basta alzarlo per ottenere un grande miglioramento dell'umore. Personalmente, da quando ho iniziato un regime di integratori alimentari stabile, i sintomi sono rientrati e i miei valori sono tornati a posto. Continuo ad avere problemi, ma sono significativamente migliorati. Ed è una cosa che ho dovuto fare da solo, e che sono costretto a spiegare da solo alle persone che magari segue, a cui, che molto spesso, essendo che la comunità a cui mi riferisco sono persone che non hanno stipendio fisso o guadagnano troppo poco per potersi permettere un supporto medico di cui parlo, non hanno la possibilità di passare a uno specialista o di scoprire queste cose per conto loro. Però hanno la possibilità di farsi un esame del sangue O2. Ci rientrano nei costi. E riescono a comprarsi degli integratori a prezzo contenuto. Spesso glieli trovo io stesso. Dall'estero gli trovo qualcosa che costa poco, tipo sui 5,60-90 capsule. Ci vai avanti 3 mesi, è una spesa sostenibile. Però queste cose gliele devo spiegare io di persona, nessuno gliel'ha mai dette. È difficile farmi credere, oltretutto, perché non sono un medico, non sono una persona con una specializzazione al riguardo. Posso mandarti delle ricerche che magari non leggerai perché sono scritte in maniera tecnica. Non posso, ma la maggior parte delle persone magari non tende a prendermi sul serio all'inizio. Eppure, le persone che hanno fatto questo percorso migliorano. Quelle a cui l'ho passato, quelle che l'hanno fatto prima di me mi hanno dato consigli su come iniziare a gestirlo. Sono tutte opzioni, ovviamente. Non ha senso pensare che mangiare bene, bombardarsi di integratori che nel 90% dei casi non servono a niente, è necessario usarli in maniera specifica per avere degli effetti positivi. È inutile pensare che questa cosa risolverà magicamente qualunque problematica. Sono problematiche che non si risolvono così. Ci sono malattie del corpo, infine, che sono difficilissime da diagnosticare e che spesso ci arriverai fra 20 anni, se reggi 20 anni nelle condizioni mentali in cui stai. Ci sono situazioni in cui lo psicoterapeuta non riuscirà ad aiutarti e comunque prenderai il litio. Il punto, quello che voglio comunicare, è che non c'è una strada, un percorso fisso, obbligato. Non c'è un obbligo a dover seguire determinati modi di fare e che quello è l'unico modo di fare. Ci sono tante opzioni. Alcune richiedono sperimentazione, alcune richiedono rischi. Le si può combinare, le si può alternare. Sono tutte opzioni valide e disponibili per la persona che cerca aiuto e che io consiglio personalmente a chi conosco che si trova con determinate problematiche. Bisogna considerarle tutte, bisogna provarle tutte, bisogna anche comunicarlo all'esterno, perché le persone non lo sanno. È molto, molto più facile ridurre la propria esperienza e la propria conoscenza a un... sì, conosco uno che sta male, è andato allo psichiatra e ora campa decentemente. C'è anche chi si risolve dallo psichiatra, c'è anche chi fa periodi di terapia di X mesi con un farmaco e non ha più bisogno. Però di nuovo, non sono tutti i casi. L'appiattimento è quello che mi preoccupa, l'appiattimento e il rischio. Ridurre tutto a persona grave da curare come una persona grave, persona da dire corri più spesso e mangia meglio. C'è un intero spettro di casi in mezzo che vengono fondamentalmente ignorati per la maggior parte, che portano le persone a darsi al fai da te come ho dovuto fare io e poi dimostrare che il fai da me aveva una validità scientifica, cosa che ho dovuto fare per sforzo mio, eccetera eccetera. Di base l'idea è che una cosa che molta gente ignora riguardo la medicina come campo in generale, ma anche la psicologia e la psichiatria, non c'è la presunzione da chi la studia, ma sì invece da chi la pratica come medico, di fingere che si sappia tutto. Non si sa tutto. Molte cose che sappiamo che funzionano, ma non sappiamo perché. Questo lo dirà qualunque persona che ha studiato medicina o lavora in medicina, e che sia sincero. Quindi è anche inutile fingere che quello che ci venga dato come opzione sia per forza le uniche. Esplorate, tentate, rischiate, informatevi al riguardo, parlatene con le persone, offritegli alternative quando vedete che sono in difficoltà, fate network, collegatevi fra di voi al riguardo, se conoscete una persona che ne sa più di voi, sfruttatela come risorsa e chiedetegli consiglio, cercate sempre verifiche di quello che fate, non semplicemente dite funziona, allora continuo, perché è difficile prevedere gli effetti negativi. Fate tutte le verifiche del caso, date tutto il supporto che potete alle persone che avete intorno, e quindi fondamentalmente cercate di sfruttare tutte le opzioni a vostra disposizione. Questa è l'idea di fondo e questa era l'idea del talk, offrirvi un attimo una panoramica su tecniche che conosco, che ho usato, che hanno usato persone intorno a me e che gli ha permesso di migliorare, che magari sono difficilmente accessibili se uno non si fa tutto il suo tempo di studio, se non ha la fortuna di incontrare quello che c'ha esperienza con sta cosa, eccetera eccetera. Questa è l'idea di fondo. Prego. Ti sento poco. Microfono. Ciao, se oltre alla registrazione ti sentivo. Varie esperienze, è una domanda che sto ponendo per vedere un po' di risposte. Cosa può succedere se si interrompe gradualmente l'utilizzo di farmaci si interrompe di botto l'utilizzo di farmaci se questi sono antipsicotici, ad esempio l'Abilify o Risperidone, oppure, che è il caso della mia domanda, cosa può succedere se si ha una diminuzione graduale di questi farmaci, si eliminano pian piano i farmaci che ti controllano un po' il livello muscolare delle gambe eccetera, gradualmente li abbandoni, però salti il passaggio finale, diciamo, di dimezzare completamente la dose e smetti di prenderli di botto. Che cosa ti può succedere? Figurati, grazie per la domanda. Allora, su questo ammetto di non avere un'esperienza diretta, cioè ho contatti che hanno persone che hanno disturbi psicotici. Alcuni hanno tagliato corto, cioè hanno tagliato a secco, hanno smesso di botto. Questo può avere un sacco di effetti negativi, perché non sempre una terapia breve risolve i sintomi psicotici. In alcuni casi rimangono, in alcuni casi sono causati da altro che non viene ridotto dall'utilizzo dell'antipsicotico. Non abbiamo nemmeno chiara ad oggi tutto il funzionamento dietro la psicosi, perché avviene altro. Gli antipsicotici sono un altro esempio lampante di farmaco che ha funzionato, hanno fatto un po' di trial con persone, hanno visto che funzionava e hanno continuato a produrlo. Fa malissimo fisicamente, Abilify ti devasta. Il problema è che sono l'opzione migliore che abbiamo in quei casi in cui tu vuoi avere quell'effetto, cioè eliminare le psicosi, eliminare le allucinazioni e tutto quanto. Sull'esperienza del scendere gradualmente, ti dico che non conosco persone che l'hanno fatto, non ho mai letto al riguardo, quindi non posso dare un'opinione informata su questo. Il discorso rimane sempre che nei casi in cui la cosa era riducibile, nel senso che l'uso dell'antipsicotico le elimina, il che può implicare in realtà che il problema sottostante fosse temporaneo e l'antipsicotico casualmente tocca i processi chimici che ci stanno dietro, risolvi scendendo gradualmente, perché scendendo gradualmente non avrai un ricrescere degli episodi e dei sintomi. Moltissimi altri casi succede e oggi non abbiamo un modo preciso di distinguere fra queste diverse situazioni, è molto soggettivo. Tendenzialmente i psichiatri su queste cose vanno tentativi, partono da un dosaggio basso, lo alzano finché non funziona, lo mantengono finché non vedono un miglioramento costante e poi iniziano a diminuire poco per volta, sperando che di riuscire a diminuire fino ad eliminarlo. Quello che succede tendenzialmente è che arrivi a un punto in cui lo elimini abbastanza o lo elimini del tutto, i sintomi riappaiono e sei costretto a rialzare. Perché lo dico per esperienza, perché è comodo saperlo, che ho scoperto che un sacco di gente che ha abusi di droga gli vengono prescritti antipsicotici un po' a cazzo, diciamo, e ero terrorizzata dall'idea che una persona mia cara ha smesso di prendere gli antipsicotici subito, cioè in un momento, senza scendere gradualmente, ed ero un po' terrorizzata da quello che potesse succedere. Ormai è quasi un anno che questa persona sta benissimo ed era 6 anni che non ci stava dentro, quindi io stessa mi sono dovuta ricredere sul fatto che forse anche negli ambienti antipsichiatrici eccetera non ci facciamo tante domande sul fatto che a volte il farmaco serve, a volte ha senso utilizzarlo, che però se dovesse succedere a qualcun altro, tutti gli psichiatri del mondo ci hanno detto devi assolutamente scendere gradualmente, se no rischi di andare fuori di testa, rischi di poterti anche ammazzare. Questa cosa non è successa e anzi sta benissimo questa persona, quindi per sé, per caso. L'hai detto rischi, ma diciamo sì, che hanno fatto un grande terrorismo psicologico. Poi è chiaro che sarà anche il loro ruolo da medici, chiaramente, quello di evitare i rischi, quindi suppongo che sia anche sensato dirtelo, ecco. Però per esperienza, non vuol dire che succede, no, hai ragione. Per esperienza, grazie per l'intervento. Questo è un esempio di quello che dico, comunque. A parte che poi sui disturbi da dipendenza, se la psicosi è generata dalla sostanza, c'è tutto un altro discorso dietro, che potresti andare un attimo a capire quale processo è legato, eccetera, eccetera. Ma là di nuovo si fa medicina sedativa. Cioè la psicosi, non sai cosa fare, come fare, ti limiti a far scomparire la psicosi sperando che quello smetta con la sostanza che è la causa. Di nuovo, tu stai curando il sintomo, non stai gestendo la causa. E magari la persona consuma la sostanza per un'esperienza traumatica, eccetera, eccetera, che tu non tratti, non gliela risolvi, e quindi quella persona continuerà ad avere il momento in cui è intollerabile stare senza l'utilizzo di quella sostanza, semplicemente per superare una cosa che poteva essere superabile psicologicamente con grande sforzo e dopo tanti anni, ma con una terapia mirata, ad esempio. Prossimi, prego. Che ansia. E ha voglia. E no, allora, non è proprio una domanda, è un intervento, cerco di essere il più breve possibile. Innanzitutto grazie per aver preso questo spazio per parlare di benessere mentale, che è sempre importante, e è molto difficile condensare tantissimi temi in un talk, quindi grazie. Ci sta una parte sulla quale a me piacerebbe mettere l'accento, che è riconoscere la valenza politica di relazioni e di concezione del sé che mettano in discussione anche le modalità con cui percepiamo il nostro benessere mentale, anche quando pensiamo di essere sani, sane e sanu. Questo non è un intervento antipsichiatrico, nella misura in cui per me l'antipsichiatria non significa non riconoscere l'importanza della psichiatria quando serve, ma è un intervento antipsichiatrico nella misura in cui è il capitalismo che è schizofrenico ed è il mondo che è intorno a noi che è schizofrenico, cit Deleuze e Guattari. E questo su di noi ha un effetto che può far sviluppare, oltre a tutta una serie di altre condizioni, il malessere in alcuno di noi. Ed ovviamente poi le risorse a cui noi dobbiamo accedere o poter accedere devono essere moltiplicate. Una di queste è le forme di rete che si allargano quando ci consapevolizziamo sul concetto di neurodivergenza e sul concetto di malessere mentale diffuso e sul concetto di gestione collettiva del malessere, che è una delle risorse. Anche l'etnopsichiatria è una forma molto importante grazie alla quale si possono usare teatroterapia, arteterapia, inscenare insieme delle modalità con le quali la nostra relazione parla e mette al centro anche il nostro malessere mentale, altrimenti tenderemmo a riprodurre la dinamica malato-sano, che è la vera malattia della situazione. E quindi fare collettivi, fare rete, discutere di questo a partire da questa analisi politica è l'altra faccia, non contro la scienza, ma che deve andare parallela alla scienza, che non è mai neutra. Vero. Vero, su un paio di punti magari non sono completamente d'accordo, ma sul 90% sono d'accordo. È una cosa, è un piccolo fatto che vorrei aggiungere, che è un po' a sostegno di questa cosa. Esiste quello che viene chiamato the outcast paradox, ovvero le persone che sviluppano schizofrenia, quindi hanno le prime psicosi, in paesi in via di sviluppo. Questa ricerca è stata fatta su paesi come l'India, il Niger, nelle aree più povere. Tendono a riprendersi prima, più facilmente, e ad avere meno ricadute delle persone schizofreniche nei paesi sviluppati, nonostante nei paesi sviluppati ci siano molte più risorse per dargli supporto. Qua c'è anche un discorso sociale dietro, perché comunque la maggior parte delle malattie hanno anche un legame sociale. Io sono stato a parlare soltanto di chimica e di farmacologia perché strumenti utili. Io qua volevo dare strumenti, idee, magari qualcuno poi me lo chiede, gli passi link e c'ha qualcosa da usare. Però c'è tutto il discorso dietro. In questi paesi tendenzialmente la psicosi, come l'allucinazione e altro, non era vista come una cosa negativa da mettere da parte nelle culture di queste zone del mondo, ma ha un ruolo sociale, ok? Viene riconosciuto come una cosa che può avere un'utilità, viene data ascolto e importanza alla persona che ha questa esperienza, e anche soltanto questo basta spesso alla persona per ritornare alla realtà gradualmente. Mentre invece isolarla ulteriormente, trattandola come una persona che deve stare sotto antipsicotici tutta la vita, ritornando a quel discorso lì, stai peggiorando la situazione, stai peggiorando il disagio, il sentirsi diverso, il sentirsi fuori, e per quanto tu ci stia spendendo tecnicamente più soldi e più risorse rispetto a una persona che ha la stessa esperienza in un paese in via di sviluppo, la vivrà peggio. Questo è anche un tanti esempi dei limiti su queste cose. C'era il tuo intervento, volevi? Abbiamo tempo, ok. Allora, in pratica ho sentito che hai parlato in tutto questo anche di sperimentazione di psichedelici per cura di depressione, eccetera. Adesso, in pratica, ho visto che nell'ambito del Molecular Dynamics comunque hanno iniziato a tirar fuori delle molecole specifiche partendo da dei concetti che possono venire fuori dal microdosing oppure da tipo di esperienze con enterogeni, che però vengono modificate per pazienti diversi a seconda di cose diverse. Ad esempio hanno fatto un modello che è molto simile alla psilocibina come molecola, però non dà effetti visivi, oppure dura 20 minuti perché lo usi in una sessione, in una cosa del genere. E il punto è, perché proprio adesso? Perché adesso c'è questa cosa che stanno chiamando il risorgimento psichedelico, in cui la ricerca ha iniziato a provare a reinvestire anche su molecole diverse dal benzo o comunque SNRI, SSRI e quelli. Il discorso però è che ora disponiamo anche di strumenti in cui possiamo proprio andare a scegliere come modellare la molecola che fai con drug design, andando a intervenire proprio sul ligando specifico che hai con la forma della sinapsi. Cioè, tu come la vedi questa cosa? C'è speranza? Cioè ha un senso? Non so, perché un po' io non so come dire, mi sembra di vedere che dell'interesse della ricerca ci sia, non so poi effettivamente cosa ci si può arrivare a fare, capito? Perché ancora a me sembra ancora l'inizio, anche perché poi la ricerca di tutta sta roba per buona parte dei paesi è stata proibita per anni, capito? E questa è un'altra cosa che ci portiamo. Guarda, su questo ti dirò che la parte delle molecole modificate in maniera specifica è una cosa che non conoscevo, grazie per averne parlato. Io approfondirò. Sulla parte generale della dell'approfondimento sugli psi, di sostanze, una cosa di cui avevo parlato, che venendo usato man mano in ricerca, proprio perché c'è la necessità di coprire situazioni che non si sanno curare. E in realtà, vi dirò, spesso mi è capitato, frequentando persone che hanno un consumo di droghe molto superiore al mio, che in realtà è basso per vari motivi, sia per preferenze, sia perché alcune non reggo proprio per una serie di problematiche mie, mi hanno detto che fondamentalmente tutte queste cose, molta gente che è nell'ambito degli psichedelici da una vita, le sa già. Cioè sa già che il trip di funghi ti può risolvere la vita, farti rivalutare tutto, eccetera. Può anche non farlo, però può succedere, eccetera, eccetera. Il problema di questi approcci è che è a tentativo. Nel senso, tu quando vai a farti il trip di funghi non sai come andrà a finire. Ci puoi influenzare la cosa, l'ambiente è giusto, il trip sitter, ma non hai la garanzia. Però di fondo l'idea è che queste cose hanno degli effetti positivi. Per questo cerchi il... nella situazione in cui ti servono, appunto. Sì, sì, è quello... Sì, parzialmente determinato, sicuro meno variabili, esatto. Meno variabili rispetto a prima. E quello ha perfettamente senso. Continuerà, penso, questa cosa perché ce n'è necessità. Ed è un buon modo di nuovo di rivalutare un attimo tutta una serie di cose che prima venivano relegate a cose da vietare. Poi arriverà il giorno in cui ci sarà la chetamina come farmaco, l'MD come farmaco. Quella, fra virgolette, l'MDMA si usa per le persone con disturbo da stress post-traumatico, perché gli permette di superare barriere emotive che si sviluppano in base al trauma e di riuscire a interagire con l'esterno, col mondo esterno, cosa che spesso una persona vittima di traumi non riesce a fare, perché l'esperienza del trauma è talmente pervasiva che non riesce più ad approcciare il mondo per com'è, ma lo vive sempre attraverso la finestra del trauma, col rischio di non riuscire più ad approcciarsi. L'MDMA ti scioglie da quel punto di vista, ti permette di vivere meglio il confronto con gli altri. Però di nuovo, rischi, valutazioni, verifiche, eccetera. Se usa già l'eschetamina, che è una variazione della chetamina per trattamento depressivo. Ne avevo parlato prima, sì, sì. Quindi è stato non per il trattamento. Sì, esattamente. La chetamina la paghi poco ed è la stessa identica sostanza. No. Questo no, allora, su alcune cose, alcune droghe è difficile offrirti una roba, ti può dare una roba scadente, ma ti danno lo stesso principio. Che ne so, l'erba col fumo è tendenzialmente difficile darti una roba che non sia quel principio là, te la possono dare scadente. Su sostanze prodotte in laboratorio di una certa complessità è facile che ti diano una solata, cioè ti danno una roba che ha effetti simili ma è una sostanza completamente diversa. Cosa che scoprì un periodo in cui, sempre per stare dietro a un'altra persona, ero stavo ad approfondire tipo alcune combo di droghe, tra cui LSD ed MDMA insieme. E là il discorso che fanno persone molto più esperte di me è che il rischio principale, oltre alla difficoltà di gestire un trip del genere che ha una certa intensità, è che devi essere sicuro che siano entrambe sostanze pure, perché sennò ti danno qualcosa che ha effetti simili ma ha un principio chimico completamente diverso, col rischio che tu sia la prima persona al mondo. E può succedere, perché ti danno principi chimici abbastanza casuali, cioè ti danno roba che ha più o meno quell'effetto tagliata con quello che capita. Magari se la prima persona, può capitare, anche vabbè è raro, ma il senso è quello, che fa questa esperienza di combo chimica, che può essere letale, e tu sei la prima persona che la proverà. Quindi là il rischio di fondo è, sì, la chetamina te la puoi prendere anche senza passare da un medico, però a livello di qualità del principio e di come è tagliata devi stanno, cioè arriva comunque il punto in cui, se questa cosa la vuoi fare con un'ottica curativa, eccetera, c'è un investimento, devi prendere comunque qualcosa su cui hai una sicurezza. Certo, no, io stavo solo dicendo che un medico, uno psichiatra che si chiama Piero Cipriano... Okay, prego. Aggiungiamo. Ho avuto il piacere di parlare, insomma, insieme a un gruppo, anche questo psichiatra che si chiama Piero Cipriano, che è un po'... Lui è uno dei pochi in Italia che usa l'eschetamina per, okay, insomma, trattare i pazienti, che diceva, diciamo ironicamente, che se ovviamente al di fuori della medicina dell'impianto medico è difficile trovare, cioè non è che è difficile, ma può capitarti di non trovare una cosa con quel principio attivo e quindi di fare danni. Però sostanzialmente, se fosse chetamina buona, potrebbe essere usata e avrebbe un costo molto inferiore rispetto a quello che invece le case farmaceutiche gli fanno pagare migliaia di euro per un trattamento di un paziente. Non so quanto fosse rilevante l'intervento, ma per dire che, insomma, poi magari un quella stessa, esatto, è un rischio, no, certo che è un rischio, no, no, io dicevo anzi il contrario, di comunque affidarsi alla scienza in questo caso, perché sono quelli con più prove e con più sperimentazione, però questo paradosso anche che poi quelle stesse magari sostanze è un costo enorme per lo Stato farle somministrare, no? Quindi la stessa istituzione non... Quindi infatti il problema qua non è non seguire o seguire la scienza, il problema è che la stessa istituzione che finanzia poi la ricerca non segue la scienza perché non c'è una convenienza economica, per altri motivi culturali, cioè 5 minuti, va bene. C'era qualcun altro che voleva fare interventi, non mi ricordo, prego, tu, allora, perché non ha ancora parlato, non peraltro. Sì, va bene, non si sentirà, ma come preferisci. No, niente, non so se riuscirò a formularla abbastanza bene perché ho un sacco di robe in testa. Allora, vabbè, io ne vengo da un percorso di riduzione del danno su Genova, è abbastanza giovane, siamo tutti Regas super giovani. Siamo super all'inizio, quindi drug checking, materiale informativo, statistiche, eccetera, eccetera, no? E è successo già diverse volte che appunto ci siamo fatti delle domande, cioè su come proseguire in modo vario e appunto inclusivo un percorso di riduzione del danno e un percorso invece di attenzione a problematiche emotive, psicologiche, psichiatriche del caso. E niente, cioè ho trovato super interessante tutto quello che hai detto, però mi rendo conto di avere tipo un sacco di bias interiorizzati su alcune cose, per cui non riesco a capire tipo effettivamente, cioè banalmente tipo, cioè penso che sia normale che in diverse situazioni magari tipo intorno a noi ci sono persone che... Parliamo solo di persone che conosciamo bene, cioè al di là dell'utente base che magari viene semplicemente a farsi testare la sostanza, che quindi è un caso ancora più complesso, spesso abbiamo persone intorno a noi che sappiamo avere diagnosi X piuttosto che Y e che sappiamo avere difficoltà emotive psicologiche specifiche. E è super complesso cioè è super complesso quando questo si interseca inevitabilmente molto spesso a degli usi o dei poliusi o degli abusi di determinate sostanze, cercare di avere un profilo di riduzione del danno super diplomatico e allo stesso tempo riuscire a porre attenzione all'esigenza. Allora niente, sì, era tipo, ho capito l'idea di fondo, consigli, riflessioni, ci sono su questa cosa, cioè, allora. Sì. Okay. Se ho capito bene, bias intorno anche a tutto il discorso sulle droghe e altro, che in parte serviva anche a tirare fuori i motivi per cui possono servire o perché servono alla persona che ne fa uso prima di capirne. Ora, questo era un discorso generale, poi andando caso per caso, ad esempio, persone che stanno facendo un percorso di riduzione del danno, quindi hanno già una manifesta incapacità momentanea che si spera superino a gestire determinate sostanze, io ovviamente non gliene consiglierei altre. Ci sono tante strategie al riguardo. C'è principalmente una questione di permettere a queste persone di aprirsi emotivamente, cioè hanno la necessità di poter dire anche io sono stato male per una cazzata, però possono dirlo. Io comunque le persone che ho conosciuto, almeno ho questa correlazione vaga in testa, tipo grafico di correlazione, più è pesante l'uso della droga, più è frequente, più tende ad esserci problemi psicologici gravi sotto, cioè persone che hanno subito abusi, persone traumatizzate, persone abbandonate, che non hanno possibilità di vivere in autonomia e altro, perché il giorno che non vanno al lavoro sono senza casa, sono orfane, abbandonate, tutte queste situazioni. E quindi nel senso là c'è proprio una costruzione prima di una situazione sociale che le permetta di far sentire a casa, supportati da qualcuno, magari spesso per la prima volta nella vita, poi di permettergli di esprimersi. E poi in realtà ci stanno un paio di trucchetti a livello anche di nutraceutica, quindi integratori e altro, che possono aiutare. Ad esempio c'è una sostanza che è l'N-acetilcisteina, io ne faccio uso occasionalmente, te la danno tranquillamente come integratore. Stimola la produzione di una sostanza nel corpo che si chiama glutatione, e che fra i vari effetti positivi per l'uomo, tantissime, antiossidante, eccetera, eccetera, riduce i sintomi dell'astinenza. Quello che a me risulta difficile è che ci sono determinate situazioni in cui, a meno che tu non conosca o non segua quotidianamente un utente, per esempio in festa, sarebbe, cioè, è un po' complesso, no? Sì, sì, no, là è impossibile, ovviamente. Però, tipo, un minuto. L'unico modo è andare avanti a leggere paper, cioè ti devi andare a recuperare proprio le ricerche a livello accademico, farti lo scazzo di cercare di capire qualcosa su roba che non è il tuo campo, perché è l'unica fonte di informazioni sicura, testata, che usano le stesse persone che fanno ricerca, in cambio è difficilmente comprensibile. Cioè è un grosso sbattimento magari per capire cose semplici, un po' di sperimentazione. Io personalmente all'inizio mi stavo facendo danni per sbagliando i dosaggi di alcune vitamine, eccesso di vitamina E, mi stavo letteralmente liquefacendo troppo il sangue, quindi avevo sanguinamenti continui, eccetera, ho dovuto sottodosarlo. Perché? Perché non c'è sufficiente materiale al riguardo per gestire questa cosa in autonomia, quindi capita che fai cazzate, capita che non ne sei abbastanza. Purtroppo l'unica fonte sicura è articoli di ricerca, se ti interessa questa cosa precisa. Prego. Allora, io mi volevo ricollegare a quello che ha detto la ragazza lì riguardo, c'è questo principio, no? Affermato in psichiatria di ridurre il farmaco gradualmente. Però se prendiamo seriamente la self-medication hypothesis, quindi consideriamo che per esempio altre sostanze non ufficialmente legali o riconosciute abbiano un loro valore, ci rendiamo conto quanto è ipocrita la nostra società, perché nel momento in cui, per esempio, viene individuata una persona che ha una dipendenza, viene fatta immediatamente smettere perché è illegale. Senza chiedersi perché l'abbia usata. Magari l'ha usata perché, oltre a creare sollievo ed essere piacevole, aveva anche degli effetti proprio farmacologici utili sul corpo. Sì, banalmente si può fare l'esempio di abuso di caffeina o comunque sostanze che alzano la pressione. Sono persone che alla fine scoprono che avevano una dipendenza da caffeina perché avevano problemi di pressione cronicamente bassa e altro, e il consumo eccessivo di caffeina era l'unico modo per stare in una situazione di, cioè, lo stato di pressione, quindi tutto quello che è collegato di una persona che ha una pressione normale, semplicemente perché nessuno gli ha mai fatto fare le verifiche giuste. Sì, quindi siamo in una società ipocrita che comunque, quando si esce un minimo da certi paradigmi, non applica più i principi stessi scientifici che riconosce. Vero. Quindi questo anche per rispondere a quello che dicevi tu per rispondere anche un po' a quello che dicevi tu, cioè tu magari ti trovi davanti a una situazione assurda, però rendiamoci anche conto che noi veniamo da una società e da una prospettiva assurda. Cioè, se prendiamo un minimo seriamente la self-medication hypothesis, queste sono persone che nel loro ambiente, nella loro vita, sopravvivono con cocktail di chissà quale merda, capito? Quindi già cominciare, cioè al di là del studiarsi i paper, eccetera, quello ovviamente però è molto impegnativo. Diciamo, un gesto semplice è uscire un attimo dal nostro etnocentrismo, anche in un certo senso, cioè dalla convinzione di sapere che cosa è bene per gli altri, e invece lasciare che sia quella persona a rivelare che cosa sta succedendo in quel caso così complicato, così strano, se c'è la possibilità. Poi certo, se si incontra per mezza volta non... Purtroppo questo era l'ultimo intervento, mi segnalano comunque che il tempo è finito anche alla larga. Grazie per essere venuti, grazie per aver partecipato. Che altro c'è qua? Chiudiamo questo talk a beneficio di chi ci sta ascoltando in diretta. Siamo ad Hack Meeting a Reggio Calabria, al centro sociale Cartella. Siete ancora in tempo a raggiungerci per chi ascolta C-Roma in FM nell'area urbana di Cosenza. tranquillo. Guarda, forse è l'unica cosa del piatto. Sì, ormai lo vado a lavare. Però passando in radio.